il finto criminale finisce male, la spia da scovare, un uovo da queste parti. Ehi man, ma lo sai, quella coppia di campione sempre parti. Riparte il cervello sotto effetti di pasticche, coche e spagnole d'ero cariche. Nel regno di oltre ci droghiamo con le metriche, liriche oltre effetto steam e queen. Nella vita ho provato tutto tranne drag queen. Ibiza, isola perfetta, frate piove prezzo di coca, con sta lirica tira fuori la pipetta, alla ricerca della crocca perfetta, sta roba scapotta, diverta. Alfa Dog sulla strada di El Salvador, giungla chiama giungla, selvaggi noi stile jungle, rango, fango, rango, sta roba smina, mina in Congo, diamanti di donne shanti, entra carezza, curve devono mettendo i guanti. Alfa Dog sulla strada di El Salvador, giungla chiama giungla, selvaggi noi stile jungle, rango, fango, rango, sta roba smina, mina in Congo, diamanti di donne shanti. Mentre carezza curve devono mettendo i guanti, mentre carezza curve devono mettendo i guanti, la carezza curve devono mettendo i guanti, la paura di fra per la volante, la fama per il contante, la mala e il latitante, lo squercio e il furbo, l'intelligente e il demente, tutti in bamba, tutti uguali, frega niente, frega un quadro, qui passo per passo fa normalità. Siamo tutti fuori, sembriamo normali fra. L'odio regna e divide, l'amore lega e l'invidia uccide. Lo Stato ci vorrebbe divisa, e l'uomo è la divisa. Sono contro la perla colombiana più la visa. L'odio regna e divide, l'amore lega e l'invidia uccide. Lo Stato ci vorrebbe divisa, e l'uomo con la divisa. Sono contro la perla colombiana più la visa.